Dai, sta mettendo la presa. Ma un'amica sua gliela data, boh. E ha fatto come c'era una ricetta, dovrebbe essere buono. È bello comprato, bello fatto, là. Ehi, ehi, andare. Sì, ma vedi, si andare. Spedizione, la spedizione è gratis, mi l'ha visto anche Marco, l'ha visto. 162 mi pare, giusto? I 162 spiccioli, la spedizione è gratuita. L'ho preso per quello. Avete visto che c'erano i gilet arancioni a Milano? E Pappalardo c'era, ma il generale Pappalardo. Manifestazioni in varie città d'Italia. Sassari naturalmente no, in compenso i bar sono pieni qua a Sassari. Ma chi si vivono più buon gubbide 30 arrivare? Non si sa mai, figliolo. E vai qua, cuore. Ci sono all'ordine del giorno, con i tazzini trattano tutti. Cuore. No, tazzine ti danno quello in plastica, perlomeno io credo. E tutti i bardi hanno quello in plastica o no? So di sì, dovrebbero fare così. Non c'è da scherzare con questa azzurria, no? Non è così. Ne ho preso un marocchino l'altro giorno, me l'hanno dato una tazza normale. Poco. Caspita, e come si fa a sapere se è stata disinfettata bene, se l'hanno gli hanno dato una bagnata sotto l'acqua, magari l'ha usata uno prima. Pucci. Infatti, se non usano la lavastoviglie e sanificarle bene quelle tazzine, non c'è da fidarsi, no? E se anda un infetto in chivi. Infatti. Ah, comunque ho visto anche un bel di gente senza guanti, senza nuda, senza mascherina seduta dentro al bar. Ma anche per rispetto per chi lavora bisognerebbe metterla. Così quando lo paghi, tocchi i soldi, li hai toccati con i guanti, che so, boh, vabbè. Hai gente al picco che ci sarà me di nuovo, di contagi. Mamma mia, altri 2 mesi a casa me. Il piccolo a pala. Non c'è da scherzare, il sindaco di Porto Torre, tanto per cominciare, ha già dichiarato che vuole richiudere tutto, perché ha visto cose che non deve vedere. Roba di segnalazioni di assembramenti gli hanno dato, lì c'è l'amministrazione pronta a richiudere tutto, l'ho visto io su internet. Oi, Luca, mamma mia. Il coso, vabbè, già hai capito. Il coso sul ciccio, il filamento lì sul ciccio. Qual è Sticcalessia? Interessante, ma è la presa d'aria contro il caldo quella, no? Allora, Ualda. L'ho mangiato proprio con amore questo riso, Qual è WhatsApp già? Andata lì, non meglio non mandargliene, se no Concetta li tronca le ossa. Concetta non c'è. Allora te lo mando. Ui, morbido sembra. Mamma mia, sembra un budino, sembra. Ma ti manca? Tu non dirlo a me manca, ma non è per i 2 mesi di clausura, i noghi e qua bisogna togliere un po' di ragnatele da qua. Paezza. Sì, e ma come Natali, sento ho detto roba ezza este. Caspita, se ci vuole il via cal, un po' di ragnatele, via da togliere, eccetera, eccetera. Dai. La giusti. Ma non sta ricevendo, vedo che è apparsa solo una freccia, un segno di spunta. Non l'hai ricevuto nemmeno. Metta di sé. Gianni, l'ha visto? Io l'ho mandato. Questa è la signora di Lourdes. Ah? Altro che coso, altro che cheeseburger. Altro che baracchino, Anche uno schema mi hanno mandato. Appagata. Anda bene. Sì, ma chi c'è nostra signora di Lourdes? Ho detto altro che baracchino, Questa è... Ui, ui. Senza rompere nulla. Mettere Google public flashing. Public flashing, mettere immagini. E capi, il mondo ti si aprirà. Gero grido. Lo ingrandisce bene bene mi adesso. Madonna di Zucchero. Ui, Nostra Signora. Lo fanno ai supermercati, in strada, capito? Si alzano la gonna, si abbassano il reggiseno. Cesso. Che bella invenzione la donna. Sì, in certi momenti però tenescono gli occhi. Mi stanno già prendendo l'extracistole, guarda. Mamma li turchi. Tu Natalino non aprirla la pagina, non metterlo, è public flashing, se no ti fa male al cuore. Io non ne ho defibrillatore, non ne apro per quello. Mi venga un coccolone, non si sa mai. O un coccolino. Adulti cantuse Marie. Adesso mi tocca cancellare la cronologia dell'ultima ora, dai, se no poi qua se perdo il telefono faccio anche la figura del porcaccione. Io la lago, non me la butti nulla. Noi me la su Facebook, cazzo, c'è un amico che è qua. Tutte le porcone mi manda. E me mi li arrabbia e dice, cosa la capisci a fare? Sei tu che mi rimanda a me. Gira a gira, se mi faccio un bel caffè con la moccona. Solo un assaggino, se fai bravo, io me lo faccio con la... E vabbè, io c'ho la... come si chiama? Sì, con la secca, che metti il caffè... Non a cialde. Porco Giuda infame. De Longhi. Quella è meglio della moccona. Ce l'ha anche Gianni, mi devo far dire il modello di quella di Gianni che dici che è una bomba, che c'è una macchinetta. Guarda quella macchinetta che ti ho mandato. Ah, la prova che Dio esiste. Almeno per quello. La signora di Lugaino. Lì bisogna entrarci con la benna, mi. Sì, c'ho il martello attaccato alla benna. Un incavatore che si ura. È bello che quelli inconsapevoli, mi. Quelli là, quelli anziani, passeggiando. Sì, perché hanno un'altra visuale. Non hanno la visibilità giusta. Mamma mia. Ma Gianni è rimasto colpito, aspetta, Gianni. E qua sono, vabbè, stavo finendo di cenare. Mi è mancato la reno a vedere che si cose. E a me mi manca la reno che ho. Quando lo voce. Tu guarda quella macchinetta che ti ha mandato, poi mi dici verue. Ma come va? Guarda. Nostra signora di Lugaino. Pieno di vicino. Ciao Capri 2. Benino, dai, dopo tutto. Benino, mi. C'è Gianni, Natalino, Luca. A proposito, Luca, hai apprezzato, sì? Luca è rimasto abbagliato. Thank you. hai gradito? Ehi, ehi! Ok, dai, ma stavi provando anche un apparato, Capri? Stavi regolando qualcosa? No, da me no, credo che sia quello di Natalino.